Brecco, qui fa già una bagnata, faccio... Ok, Rocca. E parlare così, giusto per parlare, sarebbe stata una bella cosa da fare, che poi io sono molto per alti e bassi, no? Un giorno dico così, un giorno dico ma cambio qua di là, poi mi attene un po', a meno che non metti di poli normali, pezzi di cavo proprio come antenne costicchiano. Non è certo una frequenza per poveracci, è una frequenza dove ci vogliono di cash, tra antenne, apparati che costano e via dicendo, se tu vuoi fare una bella stazione devi avere un po' di soldi, no, ma poi il fatto di mettere tutte queste antenne sul tetto, un casino, a me non me lo permetterebbero sinceramente, non so come. speciale di qua, c'ha controllato la piazzata, via! Mettile qua, metti! Beh Claudio, metti, cioè non è che possono impedirtelo proprio, però fanno, rompono le balle, capito? Ti stanno col fiato sul collo, capito? Per esempio, a me mi frena parecchio se mai dovessi dare l'esame, cosa che non. Adesso, peraltro li stanno facendo online, avete visto? In videoconferenza ed è orale, credo che sia orale. E lì se sbagli poche risposte, non lo so, non la vedo male. Ho detto, mi blocca il fatto che questo terrazzo sia di proprietà di altri. Se io avessi abitato nella casa vecchia dove era nonno, che il terrazzo è nostro, di proprietà, un mega dipolo a V invertita avrei messo, che ne so, tipo, oppure anche di lungo, tipo G5RV, no, 10, 20, 40, 80 metri, le bande base, mi capito? Riprendi Claudio, dai, un attimino che bevo. Ehi, buonasera, buonasera, sto facendo alcune cosette qua. Lei ha ragione Gianni, non è banda per poveri, e te lo posso garantire, io ho speso tanti di quei soldi per niente poi. A voi non ve ne fanno mettere antenne, a me stamattina mi ha chiamato l'amministratore, dice, ehi, ma il vento ti ha fatto cascare le antenne, tutto a posto, sì, hai fatto danno, qui, là, poi, hai trovato la piacere di antenne, te l'avevo detto che dovevo toglierle per fare manutenzione e poi non ne mettevo più, porca miseria, pensavo che il vento ti avesse rotto tutto, mi dispiace. Noia, ciao. E magari non impari vero che le tote, anche per l'estetica, loro, sai, ci sono liquidi che dicono che l'estetica è brutta, questo è quell'altro, l'antenna che si vede, ma a me non me la fa niente, la mia c'è più. Estetica di cosa Gianni? Una di cose per vedere, estetica, forse hai capito che è il mio, ancora non ti è chiaro a te, estetica di che cosa? Non c'è un'estetica qua, io dal primo giorno che sono arrivato ho montato le antenne e mai, e dico mai, sottolineo mai, nessuno si è permesso di dire di chi sono quelle antenne, ma stai scherzando. 70 metri quadri di mansarda io sopra, quindi non ce n'è qua, già ho visto Luca e Luca cosa c'ho sopra io, ci vuole l'appartamento, le chiavi ce l'ho io, non sa nessuno, quindi quando è venuto Provotto a cambiare l'antenna l'ho accompagnato io, l'ho aperto io, ho chiuso io, ho aspettato lì, capite? Quindi no, non ha problemi di quel genere, infatti si è preoccupato l'amministratore, perché sa che non ho problemi, però gli avevo già detto che dovevo toglierle per fare manutenzione, poi non ne piazzavo più perché tanto non le uso. Sono tutte mansarda le antenne, mica le ho vendute. Tanto cosa vendi? Ti dai di regalare più che vendi. 3.500 euro buttate, per carità di Dio, lascia perdere. Prego, che non controllo. Avanti! Ciao Claudio, ciao Gianni, dai, non so chi c'è nella ruota, stavo provando solo questo apparato, se usciva bene, volevo sapere solo questo. Sì, va bene. Sì, Gigi, qua sta arrivando bene, segnale 9, radio 5. Prova e mi dice, vedo cosa ha cambiato. Non ho capito. No, stavo facendo questa prova a vedere cosa è cambiato. 9 più 10, radio sempre 5. Ma ha cambiato il segnale, la radio no. Aspetta un attimo, appena più salto, avevo sbagliato una cosa, volevo capire questo passaggio rispetto al primo, il primo che ho fatto è diverso. Questo è più alto segnale e la radio praticamente è leggermente più compressa, l'altro invece andava meglio, però il segnale è più basso, prova con Gianni che sei più vicino da me, è così, vai da 9.5 a 9.10 abbondante, però la radio è più compressa. Da te è così? Ma anche per me è così. Il segnale non l'ho guardato, però la radio è meglio la prima. Guarda con quest'altro passaggio a vedere se è più chiara così. No. Preferisco sempre la prima. Idem e combattate. Forse appena meno compressa, forse, su questo apparecchio. Adesso è buona come radio così. Ottima e abbondante. Come cosa va benissimo, come radio esce bene, quello voglio capire. Sì, è bene, non è brutta la diciamo che forse è un po' più cupa dell'altra, dai, l'altra è più chiara. Marco, ma cosa c'è attaccato? No, io sto usando adesso il 3009 più il filtro e poi l'antenna, quindi da 4 watt me lo riduce a 3, solite condizioni. C'è 9.30 oggi, buf. Cacchio, no, qua non, Claudio, guarda un po', normale, normale, anzi proprio oggi sono ai minimi termini. Sì, Marco, sì, il segnale più alto qua, 9.25 c'è da me, quando attacchi sei 9.35, quindi per me il segnale è il tuo, non cambia niente, 25 con picchi positivi. Senza contare più forte al centro storico. Beh, senza dubbio è Rubaffetta. Ciao Gianni, ben entrato. Eia, va bene, sì, lui è bella, è corposa come modulazione, poi quando diciamo hai aumentato era compressa, il termine giusto è quello comunque, non satura, compressa, poi ho fatto un secondo passaggio, era come leggermente meno compressa, impressione mia, poi da liscio è buona, vai Luigi. Ho cambiato microfono, questo è un microfono che ho adattato proprio per questo baracchino qua, non so come esca la radio con questo microfonino che gli ho adattato, ditemi se è buona come radio. Boh, per me non ha cambiato niente, Gio. Sempre lo stesso anche questo, Gianni, questo è quel microfono piccolino che ti ho fatto vedere su quel apparato piccolino, è quell'apparato piccolino con quel microfonino piccolo. Va bene, va bene. Positivo, allora non cambia nulla, con l'altro e questo non cambia niente, comunque va bene come radio, diciamolo, gli ho dato un po' di radio, dai, non ho fatto altro, un po' di radio. E sì, tanto non cambia come tonalità, ma la radio va bene, 5 perfetta, va bene. Bianco per me. Sì, poi ho di quelli piccolini, tascabili, omologato, da mettere in tasca. Va bene, non c'è problema. Benissimo, dai, mi interessa a sapere che funzionasse bene. No, funziona, lui già funziona. Lascialo così. Sto cercando di mettermi in contatto con Gianni Cappa, in avvenuta a Lavano. In quella zona al telefono è una cosa allucinante. Se mi date il tempo ne trovo un altro di quello lì stesso, quasi gemello, di quello lì che l'ho riparato, che non usciva con neanche un watt, con niente, con zero. Adesso mi sta a vedere se ho migliorato qualcosa. Nel frattempo stacco tutto e trovo anche l'altro, così vedo se l'ho messo a posto bene. Poi ne ho altre quattro che devo buttare fuori, che non me ne faccio nulla, compreso questo che sto modulando. Ehi, non c'è nel mercato, non ci sono soldi. Gianni, riprendi tu e io me ne devo allontanare perché devo mettere in contatto con Gianni Capri 2. Però non riesco a telefonarle. No, aspetta che mi sto guardando un filmato. Ehi, ma se ti chiama Luigi rispondile tu perché io devo telefonare, dai. Ehi, c'è rimasto qualcuno. Ciao Gianni, buonasera. Ehi, non me lo fai, beh, come va? Essere un po' che non ci sentiva. Ehi, dai, adesso magari riprende un po' la stagione della radio, dai, visto che l'estate ormai ce la siamo lasciate alle spalle. Hai lavorato l'estate? No, negativo. Mi era capitata, mi avevano fatto una proposta, però poi io non era consona e ho dovuto lasciare. Ah, ecco. E vabbè, già capiterà l'occasione migliore. Ma vediamo un po', anche se all'orizzonte le cose non sono così serene, dai. Io so che dopo la tempesta viene anche il sereno, dai. Ce lo auguriamo tutti. Uioia. Uioia. Claudio si è assentato, vediamo se è risultato Marco. Marco? E c'era anche Gigi Vulcano. Gigi, avanti. Gigi Vulcano. Ma l'amico di Ussi? No, Gigi Vulcano è di Ottava, non è Gigi. Ah, stavo confondendo con qualcun altro. Non mi ricordo il nome nativo. Oh, si c'è Antonello. Ecco, sì, è lui. Ho confuso con lui. Adesso, vabbè, è passato un po' di tempo. però la timbrica mi sembrava la sua, dai, timbro di voce. No, ma era di Vulcano, ex autotrenista. Tante gomme sull'asfalto, dai. Gappa, faccia pensione, ci stanno ad aggiustare i baracchini. Già ho parlato con Gigi qualche volta, che lo sentivo smanettare su 45. Kappa. Io già ce l'ho un apparecchio di Gigi che va alla grande, solo che prende splatter in casa, il tuo attivice, quello andrebbe bene in macchina, perché tanto in macchina è una bomba. Immagino, ma curiosità, ma Natalino non si è più sentito? Manco io l'ho più sentito. Boh, adesso da un po'. Comunque, vado sempre all'antenna, dritta, evidentemente non ne ha più voglia, dai, magari in questo momento c'è altro da fare. Non saprì. Bene, bene, da. Vediamo se Marco ha fatto la pasta in bianco. Marco è andato a comprarsi un baracchino nuovo. Avanti già. Ehi, mi sa che siamo rimasti noi, adesso entrerà anche Cosa sicuramente. Pomeriggio, che di solito entra a quest'ora. Se non è che è uscito con la moglie. Ma poi cosa hai risolto? Se l'ha messa l'antenna, cosa ha fatto? Perché io sono un po' a digiuno di informazioni. Allora, in casa no, in casa praticamente non ne ha messo, però io ho visto e considerato che era così, io ho comprato, vabbè, un'antenna, come si chiama, la mini pulpo per mettere in macchina, va al quadrato e modula da lì e parla con quell'antenna, e poi a casa se l'ha attaccata nella caldaia con la base magnetica e qualcuno lo sente, qualcuno no, non lo so. Adesso non ce la può fare a mettere l'antenna lì, perché dice che il condominio si sa com'è, sono stati sempre malumori, adesso che sono un po' tranquilli non vuole avere altri malumori col condominio, capito? Vabbè, poi ognuno si regola come meglio crede. Cosa volevo dire? Che apparecchio stai usando già? Adesso il Galaxy. Bene, meda. Sta funzionando bene, sì, perché mi ricordo tempo fa che avevi avuto qualche problema. No, ho cambiato una resistenza che si l'ha bruciata, ma non era niente di grave. Ok, ho sentito un amico sotto, avanti. Ciao, buonasera. Questo è l'altro. Sta uscendo come radio, come questo, tanto per curiosità. Sì, va bene anche questo, Gigi. Poi la tua voce è cavernosa, quindi ti dà parecchi, vai bene. Qual è quello che non riusciva a aggiustare questo? Io non ho fatto il freddo, l'ho fatto il freddo, l'ho preso, dai, l'ho fatto andare. Questo lo... è quasi gemello di quello là, solo non c'è più. Quella familiarità. Ho capito. Vabbè, ma quindi stai venendo col microfono attaccato o senza microfono? No, col microfono, senza microfono. Però aspetta. Quello col microfono suo normale, quello che ti ho fatto vedere, quello con il microfono suo normale, che poi vuole l'M300 quella a parte. Non so. Ma è caduccio l'M300. 40 euro è caduccio. Però lo compro nuovo, un microfono normale. più capito. Quant'è che lo vendono le M300? Quant'è che lo vendono le M300 già? No, non ce n'è più, vedi, se M300, Flavio, non esiste più. Ho detto, ma lo prendo nuovo, mi trovo la piccata per pulire. L'ho detto volanti, però non è l'M300. Ah, no, beh, io ce l'avevo, l'ho venduto a Franco di Sosso. Dentro la busta era un po' nuovo, eh. Infatti non si trova più, perché ho detto, no, ancora vendendo li stanno, quant'è che li stanno vendendo. Vabbè, continuate, dai, sto facendo, cazzo, non riesco a mettermi in contatto con Gianni Capri. C'è questa linea telefonica che non si riesce a capire cosa cazzo c'è. Oh, questo è l'M300 già, su questo baracchino qua, non so com'è, cari. Ma riesce bene. Questo qua gli ho fatto l'attacco, gli ho cambiato il connettore nel baracchino, gli ho fatto gli attacchi tipo il 48, capito? Questo gliel'ho cambiato e gliel'ho fatto lì, perché c'era di qui lì dentro, sai come l'ho fatto? Questo è un Arani 100 blu, capito? Rientrato. Chi era l'attacco microfonico? Il 100 blu. Rientrato. Sì, no, gliel'ho cambiato io qua, dai, no, gliel'ho messo quello del tipo del Mitra, dai, tipo il 48, quelli, gli ho messo quello lì. Questo si può abbinare direttamente bene il microfono, le mette a centro. Scappa, aspetta che ti l'hanno messo. Sì, Claudio. Dimmi. Tu hai mai avuto modo di provare il dipolo G5RV, c'è varie versioni, c'è fino ai 40 metri o fino agli 80, e dovrebbe essere anche economico, per curiosità, G5RV, poi non so chi lo produca. G5RV l'ha costruito un animatore che si chiama Italia 2, 5, Italia 5 GRV, e infatti ha costruito quell'antenna e ha venduto quelle antenne, ne ho provato 4 io di quelle antenne. Per me è una grandissima cagata. Sì, boh, qualcuno ne parlava bene, d'altronde è un dipolo, cioè, sono due pezzi di cavo, boh. Poi ci sarà un balun alla base, non lo so, oppure un'alimentazione a... non lo so se ci va il cavo o la scaletta, no? Non so niente, ma vabbè, niente da fare, dai. Stavo leggendo cose così, opinioni, chi è contento, chi no. Certo, se lo metti in basso non rende nulla. Ho rotto le balle proprio la scaletta, perché c'è il dipolo, semplicissimo. Poi c'è questa scaletta attaccata di 4 metri, 5 metri lunga, proprio scaletta, fatta a scala. A pezzi di piattina di plastica, tutta fatta a scala. La devi allungare, tenerla appesa a 45 gradi, praticamente diventa un tipo un tetto di tenda da campeggio. No, non mi piace. E poi io da quassù non sono mai uscito bene con quella. Assolutamente. Quello che ho io, il dipolo, quella tuba verticale che mi ha fatto Marco Scorpio, è non un dipolo, un'antenna reattiva, una bomba, una bomba. Se ti trovi quella si chiama antenna ragno. Antenna ragno si chiama, dipolo ragno. Se trovi quello, allora si è arrivato, ma ci vogliono 30 metri di spazio per montare quella, capito? Ci vuole 30 metri di spazio, a me arriva giusta, giusta, giusta, poi è talmente pesante al centro che la devi sollevare con un tubo, capito? Quindi va montata dove c'è spazio, se non hai spazio non riesci a montarla. Eia, ok, copiato, dai. Vabbè, riprendi Luigi. Sì, amato, dai, stavo facendo cosa qua e non vi stavo seguendo, dai. Non vi stavo seguendo, che stavo mettendo a posto il disinterminatore con voi, non vedo un po' incasinato, mi pare che non faccia all'altro. Questo cos'è? Un M300 lui? Sì, ma adesso mette la totale, io sono fatto una totale già. M300 su quei baracchini piccolini, però monogatti. No, molto cattedrale, no. Sinceramente non mi piace come modulazione, molto cattedrale, no. Quello che ho volato io a Franco è molto più corposa la modulazione. E tu c'hai la voce anche molto grossa. Come mai così cattedrale? Mi sarà regolato male, non lo so. Non lo so, io. A me dico la verità non gli adottano mai, perché danno questa cosa di cattedrale, questo lo coso di gruppo, capito? Alla fine c'è meglio il box, il liscio, non mi piace la modulazione. No Marco, troppo cattedrale. Ma ti riferisci all'effetto eco leggero? Beh, diciamo che così comunque non dà fastidio, Claudio, non è fastidioso, non è come quelli ripetitivi troppo, no, che si sovrappone alla modulazione, dai. Per esempio questo è già più fastidioso, aspetta, prova, non so come sia settato e non mi sto ascoltando, questo è già più rompiglioni, capito? Luigi, riprendi. Io questo non me lo sento, ma mi sa che più o meno lo sarà lo stesso effetto che fa questo, credo, e no, io questo non lo sto ascoltando, come sto ascoltando, non lo so, non sono sentito questo minimo qua, se da qui. No, il tuo Marco è proprio impressionante, proprio da dentro la chiesa, mi sembra. Quello che sta usando Luigi invece è molto questa modulazione fine, no? Non mi dice niente di lui. Io l'ho avuto, ne ho avuto due, però non era così. Forse montato su qualche altra radio, non lo so. Ma io ho sentito il box ed è molto più corposa la modulazione rispetto a quella. Gianni, stai ascoltando? Ehi, sì, è un po' fina, dai. E il box, adesso ve lo posso far sentire, se lo vuoi sentire, te lo faccio sentire. Io sto parlando distante, adesso sto parlando vicino, io lo allontano. Mamma mia. Quando lo metto vicino mi sembra che fa una cosa. Vedi adesso che me l'ho avvicinato un po', se ha cambiato qualcosa. Lui, sembra che c'hai una patata in bocca, ragazzi. Non sei tu. Perché vuole una certa distanza così più o meno, dai. Vuole almeno così il microfono distante da poco. No, ti ripeto, non perché sia un M300 tuo, ma io quelli che ho sentito mi piacciono di più di quello, non lo so se quello originale, se è stato modificato, non lo so. Ma senti, il Proxel di Gianni è sicuramente molto meglio di quello. Non ha la corposità di modulazione, capito? C'è questa modulazione fine, non lo so. Prova a attaccare il tuo, Gianni. Questo è un altro M300, ce ne sono tre qua. Questo è un altro, solo che le batterie sono scariche, in batteria non so se ce n'è. Sì, va bene, per carità, la modulazione si capisce benissimo, però la voce è troppo fine, non mi piace la corposità, mi sembrava che era più corposa la voce, non lo so. Vediamo a sentire quello di Gianni, se vuole quello. Ehi, guarda, questo qua è il mio. Non lo so come sta uscendo. Ma io questo qui l'avevo fatto anche una modifica, Claudio. L'avevo modificato la capsula e ho fatto altri lavoretti. L'avevo modificato un po', non è proprio originale questa. Non c'è un abisso, la giorno e la notte. C'è corposità nella modulazione, è molto più forte, più corposa, più meno metallica di quella dell'M300. No Marco, cosa dici tu? Andate a pignare, molto sì. Non è quello di prima, ho cambiato il microfono, sempre M300, ne messo un analo sotto. È uguale, vuol dire che sono così. No, questa addirittura gracchia anche. Sì, è proprio fine la modulazione. Senti quella di Gianni, è più corposa, deve essere un po' più corposa. Deve avere appena di ecco, però deve essere corposa. Quella è fine, boh, non sento tonalità. Anche tu la senti così già? Sì, io addirittura a Gigi non lo sento bene con questa radio. Lo sento bene a voi, ma a Gigi lo sento un po' strano. Con l'altro lo sentivo bene, con questa qua non riesco. Sembra quasi in effetti. No, io sono in AM. No, infatti io sto provando questo paradigma. Attenzione, Claudio, ho messo il microfono normale. Lo sto provando, l'ho messo a posto, Claudio. Sto facendo una prova. Non so se è a posto, lui si è spostato le frequenze, capito? Vedo col microfono normale già, quello voglio capire, sia il baratino che sia pure in frequenza. No, col microfono normale ti ascolto bene, con l'M300 non mi biasi, capito? Così stai andando bene. Confermo, anche io ti sento bene col microfono normale. Non dire che non va bene questo baratino qua, sicuramente non si adatta per questo baratino, va bene. Boh, però a prescindere quell'M300, cioè hanno una modulazione molto strana, quella di Gianni, che un boxer va molto meglio, più corposa la voce, più amplificata, più tutto, capito? Ma Gianni Obrofetta ancora c'è. Echime, no vabbè, stavate risolvendo questa cosa del microfono con Luigi, quindi io sono qua. Come lo senti tu a Gigi? Vabbè, è da tanto che adesso non ci sentiamo in radio, comunque niente a che vedere come lo sentivo prima. Vabbè, sta provando una radio, stava cercando di adattare un microfono, niente di particolare però. Io lo sento bene col microfono normale, con gli M300 lo sento male, modulazione molto molto strana, molto strana. Vabbè, riprendi Gianni, fai girare, che riprova avrei se trovo, se riesco a mettermi in contatto con Capri. Prof, questa qui è una radio nuova, forse tu questa non l'hai sentita. Questo qui è 492 della Intec, che è nuovo entrato in casa. Ma nuovo di pacca oppure nuovo acquisto, ma cioè con radio usata, però acquistata da poco? No, diciamo che è usata ma è abbastanza nuova, capito? No, già si fa sentire anche questo, dai. Adesso sicuramente hai regolato il microfono con più eco rispetto a prima, con questa radio, giustamente. Infatti, no, comunque già si fa sentire, dai. Dai, lo posso abbassare, guarda adesso. Ho messo le luci blu, tutti gli strumenti, questo non so se lo conosci, aspetta un secondo il telefono. Hello. Un profetto. Avanti. Profetto, mi sento. Avanti, c'è posto, avanti. Profetto, va una canzona. Mercoli. Ciao già. Ciao Luca, ben sentito, buonasera. E tu, chi c'è? C'è Claudio, c'è Sparviero, che in questo momento sta facendo una bassa. Gianni mi sembra uguale. C'è Gigi, che sta sperimentando un microfono su una radio. E il Condor passa. Non so se mi ascolta di Gigi o Vulcano, vabbè. Se sono confuso, non bene, io ti vi siete parlati sopra, Luca e Gigi. Gigi non vulca. Mi ascolti, tu sei segnale uno qua, non so come mai, non lo sei. Ma questo è un'altra ancora, questo sta uscendo bene, sta uscendo male, guarda. È un'altra ancora, sì. Gigi, questo è molto molto barattolo, sembra che c'hai la capsula del microfono girata addirittura. Davvero, mi sembra che c'hai la capsula invertita, cioè girata del microfono, capito? C'ha questo effetto barattolo, tubo, capito? Luca? Vediamo, questo cambia qualcosa. Vedi tu, questo è Gigi. Ho capito, dai. No, ma l'altro forse stavo lavorando, non ce l'avevo giusto l'altro, aspetta un attimino. L'altro non ce l'avevo giusto, forse. Sempre barato Gigi, niente a che vedere con la tua modulazione classica, dai. Luca, sparito sei. Vabbè, dai, questo ho capito che è migliore, dai. Questo è migliore, questi sono i miei, dai. Quelli sono baracchinetti di niente sono, sto cercando di metterli a posto, dai. Ehi, infatti c'è un abisso, c'è proprio dall'1 al 10, proprio questo è 10, l'altro è 1, cazzo, proprio da un estremo all'altro. È positivo, dai, questo è da combattimento, non ce n'è, dai, questo è proprio da combattimento. Quello che avevo sentito tempo fa. Adesso gli altri sono tutti spariti. Vabbè. Marco, ci sei ancora? Luca forse non ti sentiva. Ma con questo deve sentire Luca, è solo al minimo, sono a 0 watt. Ma mi sa che si è spostato, ho provato a chiamarlo ma non ha risposto. Condor si è spostato anche lui forse. Doppio numero, ci sei? Forse è il telefono con Claudio. Probabile, tutti telefonando, dai. comunque qua arrivi bene, G, sempre nello stesso QTH? Sì, positivo, sempre lo stesso QTH. Bene, bene, da. Segnalone, bella radio, dai. Quella che conosco da sempre, dai. No, ne ho altre, queste, questo non lo so se lo conosci da sempre, perché sembrano tutti uguali. Ne ho diversi, questo lo operavo anni fa, poi era fermo parecchio tempo, era fermo buoni buoni, da quando ancora viaggiavo in camion, sono 5 anni giusti giusti a questo mese che sono in pensione, che sono sceso dal camion, puoi immaginarti un po', ed era sempre fermo, l'ho messo un paio di settimane fa e funziona nuovamente qua. Ega, no, parlo della modulazione. Della modulazione, quella spinta, né? Ti ho sentito con un'altra radio simile, sicuramente anche quella fatta a quei livelli, né? Tutti così ce li avevo io, ce li avevo e ce li ho ancora, perché ce li ho, me lo sono tenuti, capito? Ce l'ho tutto, quello che avevo sempre in camion, li facevo girare questi qua in camion, capito? Ma ne avevo sempre uno, un solito, era un... L'ho avuto per tanti anni, mi era molto fedele, era l'8001 che era una bomba, quello forse conoscevi tu, era l'8001, l'ho avuto anni e anni in camion, che era una cosa che non mi separavo mai, dai. Tu invece a me come mi ascolti giù da te? Ti ascolto bene, sei qua a Santiago 910, 920, Radio Super 5, perfetto. Bene Meda, bene Meda. Bene Meda, facciamo un'altra chiamata ai superstiti, Marco, Claudio e Luca, vediamo un po' se vengono a Pizzo, niente, sono occupati, dai, Giulia, finalmente un po' di sole, dai. È positivo, tu mi ascoltavi così a te, vedi un po', cambio, eia, sì, da combattimento, dai. È positivo, dai. Questo è un baracchinetto, dai, che c'ha... C'è 40 canali e 40 sotto e 40 sotto, dato dalla casa così e poi qualche modifichetta dentro, dai. Ehi, gallina vecchia fa buon brodo, come si dice. Sì, questo era quasi il tipo... Del Colt, il Colt è fatto così dentro, capito, con il doppio modulatore che ci aveva già da, questo si parla di anni fa, e questo era nato così, questo GFK, GFK è con due finali di corso, e questi erano proprio da battaglia, capito, da battaglia. Eia, radio da combattimento, dai. No, comunque adesso rispetto alla radio di prima proprio non c'è assolutamente paragone, è proprio un'altra cosa. Oh, quelle erano radioline, te l'ho detto, tascabili, sono piccoline, sono radioline piccole che sto sistemandole e... capito, una di prima, la prima che ho provato andava bene, che ce l'ho messa da una parte, quella mi è uscita bene, però quella, l'altra col microfono normale andava bene lo stesso, poi quest'ultima la devo rivedere, però è il microfono che gli ho adattato io, capito, gli ho messo un microfono monocar, mai sentito l'avrei, monocar, e se ne ha già buccato, gli ho messo quello, capito, però se le cambio il microfono va bene anche quello, perché ce l'avevo con un altro microfono l'altra sera e mi hanno detto che era una bomba questa radio, l'altra stavo operando prima, andate a perdere questa mi hanno detto che non va bene, che è troppo forte, che è fastidiosa, che è troppo forte, spinge troppo e dà fastidio, mi hanno detto. Vabbè, rispetto a... chiaramente questa è da battaglia, come hai detto tu, e quindi deve spingere, dai, è fatta per quello, e quindi magari in certi momenti può risultare fastidiosa. Vabbè, adesso già ci sta, dai. No, non è un problema. Sì, infatti sono al minimo, se li giro nella radio sua sono al minimo, se li giro guai, va ancora più forte. No, va. Per adesso va bene così, poi non so qual è il limite, comunque io ti ascolto molto bene. Gli altri sono spariti, boh. Marco! Oh, vedi adesso che ho archiviato appena arrivati, ha aumentato di più qualcosa, vero? Prima la radio era più bella, più pulita, adesso tende un attimino a distorcere, dai. Distorce così, capito? Sta distorcendo. Prima ti ascoltavo meglio, adesso sicuramente magari come hai alzato la radio si sporca un po' di più. Ho provato a abbassargli un po' i watt, vedi un po', dai, no, ha cambiato qualcosa. Sì, dai, adesso va un po' meglio, dai. Va bene, dai, lasciamo così al minimo, chiudiamo i watt che è meglio, dai. Dovrebbe andare a Santiago 7, a vedere. Ah, ecco, così, devo andare così, a Santiago 7 sono circa 4 watt. Bene, bene, io sto uscendo con, dai, 7 mi sta indicando lo strumento. E quindi siamo lì, dai. È positivo. Vabbè, dai, non entrassi, sono tutti spostati, adesso mi devo assentare anch'io un attimino. Vediamo un po' se rientrano Claudio e Gianni. Andà bene, dai, ci sentiamo dopo oggi. Via, lascio acceso, dai, mi sposto un attimino. Gappa, gappa. Beh, non c'è più nessuno. Attenzione, canale 10, canale 10, c'è qualcuno, cambia. Tu sei Gianni. Io sono io, ma purtroppo mi hanno chiamato al telefono e quando ti chiamano le donne ti devi uscire, scatti di 3 ore. Eia, ma sei a casa o in macchina? No, a casa sono. Ok, io mi sono dovuto sentare un attimino che stavo facendo roba qui. Adesso mangiamo anche. Bene, bene, bene Gianni. Visto che hanno chiuso tutti qua, forse o si sono spostati, non lo so comunque, dai. Non lo so perché io mi sono assentato, ho abbassato il volume perché mi ha chiamato al telefono una persona, quindi stavo parlando al telefono e non potevo ascoltare perché ero qua e quindi mi dava fastidio la voce alta. Ma anch'io certe volte non riesco a stare stabile, o una cosa o l'altra, mi devo allontanare dalla radio necessariamente. E beh, ci mancherebbe che stessi incollato, tassellato al divano, tassellato, capito? Inchiodato al divano. Prima c'era il profeta, c'era Luigi Vulcano, poi io sono arrivato e non c'era più nessuno, dai. È così, perché c'è da fare qualcosa, c'è una cosa che stavo cercando di parlare con KP2, ma dice che non ce la faceva, non riceveva la telefonata, lì è un casino, non prende quella zona lì, lo sai. Cioè, via cellulare non riesce a contattare Capri, così ho capito. Sì, l'ho detto prima, Claudio, che non riesce a contattare. E numero fisso non ne hanno, linea fissa, no? Ma mi pare che ce l'avevano e aveva difficoltà lo stesso, non lo so, dovevano sistemarlo, ecco la zona lì. È un casino. Perché male mi senti, Marco? No, diciamo male no, però che secondo me stai pompando tu, controlla un po'. Diciamo che non è proprio cristallina, dai. Perché ho abbassato la modulazione, vediamo un po' come va, meglio. Ehi, calato anche il segnale di brutto già. Cazzo. Guarda che di 9.30 è incollato, adesso 9.20, Vabbè che lo smetterà a LED non fa testo, però eri più 30 e sono più 20, dai. Ma quando è che ci vediamo per darmi quella cosa là, Marco? Che me lo sto sognando, che c'ho il capo pronto. Già, la prossima volta che esci in macchina, passi in zona, anzi quel giorno che quando è che eri in macchina? 2 giorni fa, ti devo dire di passare. Ma non ti perdi nulla, Migia, non credere, non ti perdi nulla. Poi, perché abbasso. Non ti perdi nulla. Poi chi lo sa, miracoli, magari sul Cobra va pure bene, perché è più corposo di modulazione, non può più con toni bassi, magari quello glieli corregge, magari esce pure una modulazione bella, bella mascola. Ma vabbè, io lo voglio provare, vediamo un po' come va. Io quel Red Devil, quello che c'avevo, faceva proprio schifo, non c'aveva bassi. Eia, sto guardando dunque. 4 dita dal mic. Cambia molto rispetto a parlare vicino al mic? No, non ti credere, sai. Un pochino. Buono ci ha persi, dai, buono ci ha persi. Quindi comunque più di tanto non spinge, dai, non voglio esagerare, poi con questi trimmer microscopici, mamma mia, non te dico, sembrano una cruna di ago, sono allucinanti. Kappa. Perché se c'ha gli attacchi di approccio per questa cosa qua, io non faccio perché attaccare il filo e basta. Poi me lo cambio il cavo ce l'ho, quello grosso, quello del, come l'ho cambiato all'alto, cambio questo. Eia, aspetta che un attimino fermo, è arrivato un messaggio. Ah vabbè, una presa in giro. Nuovo DPCM per Natale 2020. Sul presepe massimo 10 pastori. E per i remaggi che vengono da fuori, tampone obbligatorio. Capito, devi evitare assembramenti anche sulle statuine del presepe. Certo. E' quella che ho sentito io. Questo qua gli dice alla tipa, ma che sei, un telepass, ogni volta che passi si alza la sbarra. Ah, la sbarra, e che sbarra è? Sbarra? Vabbè, sotto in testa. Rocco Aproved. Cattaghert. Tu adesso stai usando il, si può dire, che apparecchio, il 48 Plus Cobra? Io da Ruggito, avanti, ci siete? Mo facciamo la festa. Ehi, oggi non l'ho sentito, Teodoro non l'ho sentito. Cosa ti stavo dicendo, porca miseria? Che apparecchietto è adesso già? Io? Ehi, tu che cosa pensi che sia? È l'Intec 495, quello da base. Aspetta, uffa, nel senso le dita annodate. E in FM come funziona? L'hai testato? Come riceve? Ah, non lo so. Povero FM, manco provato. Tutto bisogna provare. Tutto. Sai che cos'è? Che non ce l'ho a vista utica, ce l'ho l'ultimo sotto. Quindi non vedo manco dove sto andando. A volte quando schiaccio il tasto magari va e vado a laterale, non lo vedo perché è troppo sotto, capito? Avrei dovuto metterlo sopra al mobile senza metterlo all'interno questo qua, perché per vederlo bisogna fare così, perché se no non lo vedo. Comunque prova in FM, la proviamo. Ok. 1, 2, 3, vediamo un po' come va. E questo è espresso di fatto la serie di dati. 23, 4, 6. Anche in questo senso, qui, chi è che chiama? Una delle azioni. Ma lo sai che noi siamo destinati, non io la conto, sono questa carica, le due amiche è facile, non è sanista, non è cristallina, non è solo in un giro. Non è così, ma non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non Adesso dovrebbe arrivare anche Gianni, dai. Già ci sente che siamo in AM, dai. Gianni? Ci sono, buonasera Luciano. Scusa che c'avevo le vetrine chiuse, non lo sentivo a volte, dai. Lo sentivo a tratto. Eia, ci sono Luciano, dove sei? Come sto arrivando lì a Sennori? Eia, stavo facendo una prova su questo apparato che non l'avevo mai provato in FM. E siamo andati, Marco mi ha detto, io provalo, e siamo andati a provarlo, dai. Che questo è l'ultimo arrivato. Però quando attacchi sei nasino. Ciao Luciano. Ciao Luciano, forte e chiaro da questa parte, capito già? Quando attacchi ti comprime un po' la radio. Vabbè, è vicinato, sì, sempre lo fa. Gara. Eia. Lucia, adesso sono con 3 watt, guarda a vedere come sta arrivando. Io qui vi ascolto. Scappa, ma in alto sì, proprio la puntata di sento. Oh, meglio, adesso lo sto transitando qua in San Cavillo. Ah, scappa, gara. Poi chi sei zona mia? Al di fuori del locale però. Ehi, da voi ci entri dritto di bene. Tutto malissimo. È meglio ora, là. Beh, direi di sì, ancora non è ora, da. Avanti Marco. Eia, dai, bene, sì, arriva bene l'amico, un segnale 7, 8, a punte di 9 anche, dipende da come si muove. Va bene, io sto usando il mic di serie, come va? Benissimo Marco, il mic del, che cosa? Del 4009? No, Presidente, no, era per l'amico in barra pesante o mobile, com'è la modulazione? Buona Marco, buona, dai, io mi sto avvicinando a Sassari, quindi è abbastanza buono, qua curve e curvette. Eia, ciao Claudio, ben entrato, io mi ero assentato prima, ho dovuto mollare tutto e fare roba. Se avete notato io chiedo sempre com'è la modulazione, non chiedo mai il segnale non mi interessa, è importante che sia chiara la modulazione, vai Claudio. Va bene, lascia tutto così che va bene, io non chiedo niente invece, né modulazione né segnale, tanto. È sempre uguale, no, io sono sempre qua che vi sto ascoltando, ma sto facendo cose e poi ti ripeto non riesco a mettermi in contatto, infatti sono in ascolto sia che entra Claudio Chiolo di dirle di farmi telefonare da Gianni perché ho bisogno di parlare con lui per una radio. Va bene, stai rientrando Lucia? Già è ora. Penso proprio di sì, no? Da stamani. Allora ti sei uscito, hai sì. Va bene. Rientra, piano. E a me, lui, sono fatto 5 anni in quella zona io. andavo da Ogiro, Santa Vittoria, San Lorenzo, San Lorenzo Valle, Senno, e se no se vuoi andare a Nulvimi, chissà la carriera, bella rete. Ciao Claudio. Ciao Tony, buonasera. Per carità, per carità, buonasera, anche vero, ragazzo, non ha come potere, è più le rami contro il trasco, poi quegli alberi che non tagliano mai. Non è che sono l'alberi che arrivi in mezzo alla carriera, senza contare gli animali che ci sono. Vabbè dai, lasciatelo guidare Luciano che è impegnato in quella strada che è un po' l'onfia. Vabbè Tony. Ciao Luciano, sono Danci Copino, io Pepe Chiuccio. Ah, vivo, sì. È vivo, Copino. Stava male, raga. Male stava. Basta lasciarla la birra. No, lo spingidisco già, ha messo male. Oh, da rifare lo spingidisco. E la frizione, bene va. Ah, quello sì. No, va bene, va bene. Salutalo, dai. Sono qua. Sono qua in ascolto, però Tony, perché sto facendo cosa e sto cercando di mettermi in contatto con Gianni Capri, ma non riesco a mettermi in contatto, grazie. Vaghi sul telefono sempre a culo di scimmia. E ok, dai, la firma dell'ascolto e sto parlando con Cicopino. E a dopo, Tony. Vai Marco, dai, io rimango con Rix. Eia, ciao Tony, ha migliorato qualcosa della modulazione, sento, È più limpida di altre volte, diciamo, ha un po' l'effetto stanza, però è migliorata già, è migliorata, è più cristallina. Ma non è a casa sua, è da Ginko, capito? Ah, per quello, vabbè, ok, dai. Ti ha anche detto che era la manovra di Ginko, non hai inteso? No, c'ho mezzo orecchio da una parte e un orecchio e mezzo dall'altra, dai. E qua è sempre tutto un casino, capito? Va bene, dai. Continuate, io rimango in ascolto, se entra Claudio. Ho bisogno di parlare con Gianni. Da te è un casino, no? Che niente cosa ha detto vai a fisci. Sento fischi e fiaschi. PMR. Tutto acceso il PMR, PMK, PSK, di tutto bene anche. E quindi va bene. Sì, per quell'antenna quel dubbio, ho visto quella scaletta, che poi ha un nome particolare, quella che chiamiamo scaletta di quella G5DV. È una alimentazione linea bifilare, boh, non me lo ricordo, vabbè, comunque, secondo te bocciata, eppure è un normale di Ptolemy, boh. Non lo so cos'è che non rende più di tanto. Vabbè, poi non. Io conosco il cavo coassiale solo Claudio, no. Le sperimentazioni con scalette, capito? Non ho familiarità, dai, non è roba mia, è roba del mondo amatoriale. No, ma guarda, io l'ho avuto quella corta che faceva 10, 15, 20 e 40, e poi quella che faceva anche gli 80, quella più lunga. E ti dico che non ho nessuna soddisfazione. Sì, parli, ma non hai niente di. Non c'è niente di che. La rottura di balle, ti ripeto, è quella scaletta che devi, se non piazzi bene quella, l'antenna non esce. È comandata tutta questa scaletta, che è 4 metri, è un bel lunga, capito? In base alla lunghezza del dipolo sicuramente, boh. Quindi va allungata, staccata dal muro, una certa altezza, qui e là, ma che è bella di raggiungere, l'avevo staccata e l'avevo lavorata a Vannino. L'avevo regalata a Vannino con l'antenna, a Vannino di Sorcio. Non so se ce l'ha ancora, se l'ha piazzata, se c'è la lampada, non lo so. E io, Marco mi aveva dato il dipolo suo che aveva, ma questo è un dipolo a vero però. Capito? L'ho agganciato, mi ha messo gli occhiali da poco e l'ho agganciato il dipolo degli 80, quindi adesso fa 15, 20, 40 e 80. Ma funziona però, funziona bene, capito? Però ci vogliono 30 metri di lineari di terrazzo per montare quella, se ti bastano pure. Va bene, dai, rimango in quel Rix, ci sentiamo dopo. Ehi, dovrebbe entrare Chiodo Raginito, dai. Ma che linea, eppure come mai non prende a Muros? Cos'è, zona d'ombra deve essere, ma all'anima, nel 2020 che non prende il cellulare in un paese limitrofo a Sassari, all'anima, vabbè dai. A dopo dai, ciao anche a Tonino, ciao chi altro c'era, ma come la pizzo. Ciao a Ciao a Tonino. Oh Tony, Emanuele come sta di schiena? Meglio o sempre stazionario? Guarda, è un po' messo male. Lo sento.